Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, la scorsa volta abbiamo parlato del fatto che si sta muovendo il mercato immobiliare, no? Cioè le compravendite delle case piano piano sta, come dire, riprendendo piede. Oggi tocchiamo qualcosa che ha a che fare sempre con il tema casa, ma non la guardiamo dalla parte dell'inquilino, ma la guardiamo dalla parte del proprietario delle case, perché si stanno verificando, insomma, delle cose dovute evidentemente alla crisi del periodo. Sì Francesco, in effetti diciamo passiamo un attimo dalla parte dei proprietari di case, stiamo parlando in questo caso di, potremmo definire, di piccoli proprietari, cioè persone molte volte anziane che dopo vari sacrifici o risparmi di una vita, il TFR, sono riusciti a comprare una seconda casa con la quale praticamente hanno una rendita che però serve proprio per far quadrare il bilancio familiare, quindi non una rendita in più, ma una rendita che serve proprio per il bilancio. Alcune di queste persone, di questi proprietari, hanno grosse difficoltà però a farsi pagare il canone, almeno con regolarità, dai propri inquilini. Insomma, stiamo parlando dei proprietari che si trovano di fronte a delle morosità importanti e i quali hanno delle difficoltà economiche per questo motivo. Noi abbiamo varie pratiche legate poi al nostro sportello sfratti condominio, e possiamo dire che una parte, anche un quinto di questi, due quinti di questi, riguarda proprio proprietari che si sono rivolti a noi perché non sanno come fare, non sanno come procedere quantomeno allo sfratto di un inquilino che da mesi e mesi non paga l'affitto. Ti ripeto Francesco, sono persone che si rivolgono a noi perché hanno dei problemi grossi da questo mancato pagamento dell'affitto. Senza questo pagamento non riescono ad arrivare alla fine del mese, stiamo parlando di persone di questo tipo. Anche perché magari come proprietario dell'appartamento devi comunque sottostare alle spese straordinarie dell'appartamento, del condominio, e però non ricevi dall'altra parte il canone mensile di chi ci abita, quindi affronti delle spese, non guadagni e poi magari ci devi anche pagare le tasse. Sì, appunto, noi sappiamo che negli ultimi tempi, insomma, è una consuetudine, il governo ha trovato vari escamotage per tassare la casa, e si sa che tante volte essere proprietari e affittare, alla fine del mese si arriva praticamente a pareggiare i conti con le tasse che si pagano. Detto questo, insomma, sicuramente è un vantaggio avere una casa da affittare, sicuramente è una buona entrata. Però ecco, quando ti trovi di fronte a un inquilino che per mesi e mesi non paga, anche perché insomma la crisi sappiamo che ha acuito le difficoltà, però c'è anche chi un po' ne approfitta, e insomma veramente abbiamo delle persone, ripeto Francesco, soprattutto persone anziane, che vengono da noi e dicono: noi non riusciamo ad andare avanti perché questi 500-600 euro al mese ci servono per far quadrare i conti, però non veniamo pagati. Allora sostanzialmente noi come Adico, come agiamo mettendo a disposizione ovviamente il nostro ufficio legale, perché in questi casi, di fronte a una morosità del proprio inquilino, bisogna andare fondamentalmente in tribunale. Quindi chi viene da noi ovviamente ha la possibilità di affidarsi appunto a uno dei nostri avvocati, con il quale ci si presenterà, si intimerà anzi l'inquilino a presentarsi davanti al giudice, e davanti al giudice si cercherà di accertare questo inadempimento da parte dell'inquilino, e a quel punto, una volta accertato, il giudice diciamo imporrà il rilascio dell'immobile. Ecco, questa è la prima fase, perché in realtà dopo ci sono vari iter che adesso cercherò un po' di riassumere brevemente. A questo punto, diciamo, quando si chiama l'inquilino in tribunale, il tribunale è chiaramente il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. In questo caso può essere che l'inquilino si presenti in udienza, non contesti la morosità ed effettui il pagamento. Questa chiaramente è la situazione più positiva per il proprietario, perché in questo caso sostanzialmente cade la morosità e non occorre neanche procedere con lo sfratto, con il procedimento di sfratto. mentre se l'inquilino non si presenta, oppure si presenta ma contesta la morosità e comunque si oppone alle richieste di sfratto, allora a questo punto il giudice convalida lo sfratto stesso e praticamente il contratto di locazione viene sciolto. Ecco, sì. Queste sono un po' le due cose che possono succedere quando ci si presenta davanti al giudice. C'è un ostacolo che si può presentare per il proprietario. L'unico ostacolo, segnaliamo, è quello che il giudice dia all'inquilino un termine di grazia, cioè un periodo, che può essere di un mese, due mesi, quello che decide il giudice, entro il quale sanare questa morosità. In quel caso, chiaramente, lo sfratto viene rinviato. La cosa che ci viene chiesta spessissimo, e questo forse è un po' il nodo più importante della questione, è: ma quanto tempo devo aspettare prima che l'inquilino moroso se ne vada fuori di casa? E dobbiamo dire che i tempi non sono brevissimi, perché intanto non ci sono dei tempi predefiniti, però diciamo che tra i 6 mesi e un anno passano sicuramente prima di dire che si possa affittare a un altro inquilino, perché l'inquilino precedente, l'inquilino moroso, se n'è andato a causa dello sfratto. Sì. Ecco, quindi in realtà l'iter è quello. Le tempistiche per procedere allo sfratto non sono brevissime, fermo restando che ovviamente è necessario affidarsi appunto a un legale ed è per questo che noi seguiamo molti casi, perché chiaramente tramite il nostro ufficio legale dell'Adico possiamo anche dare insomma un'assistenza con dei costi assolutamente contenuti, più bassi rispetto che non andare in un altro posto. Beh, quindi è importante sapere queste cose. Io vado un po' a memoria, ma mi sembra che con la crisi che c'è stata, se una famiglia perde il lavoro e ha dei figli, la cosa per sfrattare le persone diventa un po' più complicata. Sì, che Francesco, tieni conto che appunto poi una procedura di sfratto, ecco, può essere anche diciamo seguita anche per esempio dai servizi sociali del comune. Chiaramente noi quante volte vediamo, soprattutto con le case del comune, situazioni in cui si presenta l'ufficiale giudiziario in casa, ma l'inquilino resiste allo sfratto, si rinvia, insomma c'è l'intervento dei servizi sociali per le situazioni più difficili, per le famiglie meno abbienti, quindi non è così semplice. Però noi diciamo, ripeto, stiamo parlando di piccoli proprietari, perché non vorrei che passasse il messaggio che Adico segue dei proprietari di case che in realtà magari avranno, diciamo, sicuramente sapranno benissimo come muoversi in questo caso. Noi seguiamo appunto chi ha proprietari di una casa, di una seconda casa, che vivono anche con quell'affitto là. Ripeto, se avete delle difficoltà, lanciamo un messaggio, se avete delle difficoltà con qualche inquilino moroso, vi consiglio quantomeno di fare un passaggio con il nostro ufficio legale per capire come muoversi, e poi se è il caso insomma affidarsi a noi, che insomma diciamo che anche su queste questioni siamo vecchio ferrati, seguiamo molti casi. Va bene, abbiamo lanciato il sasso, come si dice. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it. grazie all'Adico di Mestre, che ritroviamo tra un paio di giorni. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.